24, la storia. Quella che raccontiamo oggi a Mix24 è la storia di un evento misterioso, tutt'oggi senza spiegazione. La lacrimazione di una statua di gesso che raffigura la Vergine Maria. Una storia iniziata nel 95 a Civitavecchia, a pochi chilometri da Roma, che all'epoca ha fatto rapidamente il giro del mondo. Ma dopo l'iniziale clamore mediatico su questa vicenda è calato il silenzio, un silenzio enigmatico, per certi versi assordante. Mentre il Vaticano infatti continua a non pronunciarsi in modo definitivo sull'argomento, a Civitavecchia sono accaduti e continuano ad accadere fenomeni apparentemente straordinari. Quello che vi proponiamo oggi è il tentativo di ricostruire i fatti, le polemiche, le inchieste giudiziarie e i molti interrogativi che il caso della Madonna di Civitavecchia lascia ancora aperti. E a farlo per noi l'autrice di questa puntata, Elisabetta Castana. Si racconta che nel 387 d.C. Agostino, il santo di Ippona, passeggiasse su una spiaggia, immerso in profondi pensieri sulla Santissima Trinità. D'un tratto, vide un fanciullo che con una conchiglia tingeva acqua dal mare e la versava in una piccola buca. Che fai, bambino? Voglio svuotare il mare e metterlo in questa buca. Ma è impossibile. Il mare è grande e la buca è così piccola. Tanto poco questa buca può contenere l'acqua del mare, quanto poco la tua ragione può comprendere il mistero della Santissima Trinità. Detto ciò, il fanciullo scomparve. Era un angelo, inviato dal cielo a Sant'Agostino per fargli comprendere che davanti ai misteri della fede la ragione deve arrestarsi. Nello stesso luogo dove il santo ebbe la sua visione, 16 secoli dopo accade un fatto misterioso e sconvolgente. A ridosso di quella spiaggia oggi sorge la città di Civitavecchia. È un grande scalo portuale a 80 chilometri da Roma. Sullo sfondo una campagna contesa da capannoni industriali, ipermercati e una monumentale centrale elettrica. È qui che in località Pantano, Bagni Sant'Agostino, vive una famiglia come tante. Lui, Fabio Gregori, è elettricista. La moglie, Anna Maria, casalinga, accudisce i 3 figli, Jessica, Davide e Manuel. La loro storia inizia il 2 febbraio del 1995, quando si recano alla parrocchia di Sant'Agostino per la messa. Ma la messa subisce un ritardo. Fabio ne approfitta per portare i bambini a casa per la merenda, mentre Anna Maria lo aspetterà in chiesa. Come sempre, entrando in giardino, Fabio, Davide e Jessica, che all'epoca ha 5 anni, passano davanti alla piccola grotta dove è custodita una statuina di gesso alta 42 centimetri, raffigurante la Madonna. Siamo tornati a casa, la Madonnina era tutta bianca, siamo fatti il segno della croce e siamo entrati dentro casa. Dopo 10 minuti è già tempo di tornare in chiesa. Poi guardo l'orologio, erano le 16:15 circa, ho detto dai, se non mi facciamo tardi per la messa. Piano piano io mi avvio la macchina, quando io arrivo allo sportello della macchina, Jessica stava correndo, si fermò di botto e tornò verso casa. Io, ma mamma, facciamo tardi per la messa. Ma Jessica è tornata indietro perché si è accorta che nella piccola grotta, dove tra le rose è custodita la Madonnina, sta accadendo qualcosa di sconvolgente. Sono passata davanti alla Madonnina, sono arrivata fino alla seconda rosa della grotticina e sono tornata indietro perché ho visto che la Madonnina piangeva. Ho chiamato papà, gli ho detto papà, papà, la Madonnina piange. Lui mi ha guardato e mi ha fatto, ma come fa la Madonnina a piangere? Sbrigati che so, 16:21 facciamo tardi per la messa. Invece poi continua a gridare, papà, papà, corri, piange tutto sangue. Io ho inteso piange tutto sangue, mi sono messo paura. Arrivo sul luogo e guardando così l'immagine, come si vede così, sull'occhio c'era un rigolo che partiva dalla parte alta fino ad arrivare alla mandibola. Ma non camminava, era sottile, ma fino come uno, se uno con una penna avesse fatto un righino piccolino. La prima cosa è stata preoccuparmi della bambina, guardare le mani ho guardato tutte e due le mani, sì, in un senso no, ho guardato il volto, io forse la baciata si è graffiata. Allora papà era convinto che mi ero fatta male io per dargli un bacetto, per mettere qualche bambola. Ho detto: Jessica, che hai fatto? Che hai fatto? Che hai fatto? Dopo due o tre volte che non mi rispondeva, ma era assente, sembrava veramente stassi in un'altra parte, gli ho dato uno schiaffone. Poi mi ha dato uno sculaccione sul sedere, gli ho detto: guarda papà, che io non ho fatto niente. Mi ha detto: papà, perché? Io l'ho vista che piangeva. E nel mentre stavamo dialogando, così papà e figlia, dall'occhio di qua, dall'occhio destro, comincia una lacrima a scendere davanti ai miei occhi. Su Mix 24, con la storia del mistero della cremazione della Madonna di Civitavecchia, continuiamo subito dopo la viabilità. Proprio come voi, di chiacchiere non ne possiamo più ed è per questo che ci occupiamo solo dei fatti. Un'ora di informazione dall'Italia, dall'Europa, dal mondo, con servizi, interviste e analisi. Vi aspetto con tutta la redazione di Radio 24. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Da lunedì a venerdì alle 13 con Simone Spezia. BMW Free to Ride, il nuovo finanziamento per il tuo maxi scooter BMW. Info su bmwmotorrad.it. Vi presenta... Mix 24, la storia. Rieccoci a Mix 24. È il 2 febbraio del 95, la famiglia Gregori sta andando a messa e il padre Fabio viene richiamato dalla figlia per assistere a quello che ci racconta. Misi un dito per vedere che cosa fosse quella realtà, lì è stato quello che ha sconvolto la mia vita. Era un freddo di tramontana, veramente freddo, nel mettere il dito non era una sensazione, era come toccare, ecco, una lampadina accesa, il liquido era bollente, sentii un fuoco passare dalla testa in verticale ai piedi, cioè sentii una temperatura come davanti a una fornace, abbracciai forte la bambina e in un attimo ho visto un flash della mia vita. È stato un terremoto interiore. Fabio è confuso e agitato. Insieme ai bambini corre in chiesa a confidarsi con il parroco, lo spagnolo Don Pablo Martin. Era abbastanza sconvolto e mi dice: padre Pablo, io forse ho fatto un sacrilegio, magari mi devo confessare, ma che è successo? Ho toccato col dito il sangue della Madonna e mi sono macchiato. Quale sangue e quale Madonna? Gli dico io, stai calmo. Il parroco è perplesso, decide di recarsi di persona nel giardino dei Gregori per controllare la statuina. Ho pensato, questo che cosa è? Vernice, no? Inchiostro, neanche, salsa di pomodoro, neanche per sogno. Seconda domanda, chi è stato? Ho pensato alla bambina, in quanto che ai bambini si sa che piace delle volte fare pupazzetti. Terza domanda, e con che? Forse con una siringa, ma avrebbe spruzzato tutto. Ho detto: ma signore, ma non mi vorrai dire che questa cosa, ma proprio a me mi doveva capitare. Ma è solo l'inizio. La sera si diffonde la notizia che la statuina ha ricominciato a piangere. Due giorni dopo sono già più di 20.000 le persone che si accalcano attorno alla villetta dei Gregori. È il 5 febbraio 1995. Il TG1 intervista la famiglia Gregori. A Civitavecchia qualcuno parla di miracolo, tanto è bastato. E tu hai visto che le lacrime uscivano dagli occhietti della Madonna? Sì. E che hai chiamato papà? Sì. E poi che cosa hai detto? Io ho detto: papà, Madonnina, c'è sangue. E da dove veniva? Dall'occhio. L'evento ha una tale risonanza che la questura ordina il piantonamento della casa giorno e notte. Come spiegano, lo stesso Fabio Gregori è l'ex sovrintendente di polizia incaricato delle indagini, Mirko Loi. Quando arrivò la polizia è stata su mia chiamata telefonica, guardate, io non stato, non so quello che sta succedendo. Abbiamo avuto una segnalazione sul 110 che vi era questa Madonnina, questa statuetta che stava lacrimando. Mi sono avvicinato e ho visto che dall'occhio, dagli occhi, fuoriusciva una lacrima, una come una perlina, una lacrima, che scendeva piano piano sullo stesso rivolo già preesistente. Andava giù e io sono rimasto stupefatto. Nonostante le testimonianze di più di 50 persone, tra cui giornalisti, sacerdoti, pubblici ufficiali, che hanno visto la Madonnina piangere, Monsignor Grillo, vescovo di Civitavecchia e Tarquinia, è sicuro che si tratti di una truffa e minaccia di scomunicare la famiglia Gregori. Queste le sue preoccupazioni. Ero preoccupato soprattutto della curiosità che avrebbe generato, della gente che sarebbe andata lì senza controllo, senza niente. Quindi ho impedito ai miei sacerdoti di andare e quando ho visto che non ce l'avrei fatta, ho prescritto la distruzione della statua. Dico, beh, distruggete la statua e basta. Fabio e Anna Maria Gregori, addolorati dalla diffidenza del vescovo, decidono di approfondire la vicenda per capire una volta per tutte cosa stia accadendo alla loro statuina. Erano disposti persino a vendere la casa pur di avere il denaro di poter fare tutte le prove di laboratorio per vedere che cosa era quello. Ma Monsignor Grillo cambia idea, chiede la consegna della statua promettendo di non distruggerla. A questo punto, il 9 febbraio, i Gregori accettano di incontrarlo e rispondono così, intervistati da Elisabetta Castana. Com'è stato il tuo primo incontro con il vescovo Grillo? Il vescovo ha detto che ero matta, mi cacciava, mi diceva esci fuori da questa casa. E poi ci ha fatto un esorcismo, a me e a papà, e pure a mia madre, perché c'era pure mia madre. Pur convinto dell'onestà della famiglia, il vescovo Grillo vieta di venerare la statuina della Madonna, arrivando a minacciare la sospensione ad divinis ai sacerdoti che vi si rechino a pregare. Non solo, per i successivi 10 anni proibisce ai membri della famiglia Gregori di parlare in pubblico della Madonnina e persino di accostarsi a sacramenti come l'Eucaristia e la confessione. Voi famiglia non potevate andare in chiesa nella vostra famiglia? No, per un lungo periodo no, per lettera scritta del vescovo. Andiamoci piano. Molto cauti, la Chiesa non pecca mai di entusiasmi facili. Chiedo al Signore un grande miracolo, la mia conversione. Il vescovo Grillo continua ad essere molto dubbioso sulla vicenda della Madonnina, ma poi il colpo di scena. L'ho preso tra le mani, così dalle mani della suora, nel cestino la Madonnina e recitavo la Salve Regina. Io stavo con gli occhi socchiusi e quando è mio cognato che mi fa aprire gli occhi dicendomi ma guarda che succede, guarda l'occhio destro della Madonna, guarda. E così ho fissato i miei occhi e ho visto che dall'occhio destro si partiva una lacrima bianca e rossa e si bloccava sulla guancia a questa altezza e poi ingrossandosi come una piccola perla di rubino, superava la guancia e scendeva. Il vescovo, per lo shock, ha un malore. Non capivo più nulla, così. Cioè, io avevo assistito ad un evento che mai mi sarei aspettato razionalmente. Quella nelle mani di Monsignor Grillo sarebbe l'ultima delle 14 lacrimazioni della statuina. Il vescovo, ormai convinto del prodigio della Madonnina, ora vuole andare a fondo alla questione per avviare il riconoscimento ecclesiastico delle lacrimazioni. A tale scopo istituisce una commissione teologica diocesana con il compito di indagare sui fatti valutando anche i cosiddetti frutti del culto della Madonnina. Nella parrocchia di Sant'Agostino, infatti, sono già molte le testimonianze di conversioni e guarigioni. Dopo un anno e mezzo, la commissione teologica conclude per l'autenticità della lacrimazione, ma per ora non si parla di miracolo. La commissione diocesana istituita dal vescovo, l'avete sentito, emette un verdetto problematico. I membri della commissione infatti votano all'unanimità a favore della verità delle lacrimazioni, ma solo 7 su 11 di loro si dicono convinti dell'origine soprannaturale. Per il Vaticano comunque questo verdetto non è sufficiente al riconoscimento del miracolo della lacrimazione. Occorre un giudizio più eminente. E allora il 27 ottobre del 97 il dossier Civitavecchia approda la Congregazione per la Dottrina della Fede, guidata dall'allora cardinale Josef Ratzinger. Nel frattempo però del caso della Madonnina comincia a occuparsi anche la Procura della Repubblica di Civitavecchia. A chiedere l'intervento sono due associazioni a difesa dei consumatori, il Codacos e il telefono antiplagio, il cui responsabile, Giovanni Pannunzio, racconta così quella decisione. Sono un insegnante di religione, io escludo totalmente che un'immagine sacra possa lacrimare perché Dio o Gesù non si manifestano con questi fenomeni macabri. Insieme al telefono antiplagio ho fatto un esposto, una denuncia anche il Codacons, perché ha visto potrebbero esserci gli estremi di un reato, un ipotetico reato. I Gregori sono sotto inchiesta per 3 ipotesi di reato: associazione a delinquere, truffa aggravata e abuso della credulità popolare. All'alba dell'8 marzo, 6 pattuglie di polizia perquisiscono l'abitazione dei Gregori e dei loro parenti. Nella perquisizione non hanno trovato nulla, hanno vuotato tutto, cassetti, armadi, piatti, tutto, hanno sventrato casa. Fabio e Anna Maria subiscono vari interrogatori, ma non emerge nulla che possa far pensare a una truffa o una frode, come spiega l'ex sovrintendente della Polizia di Stato Mirko Loi, incaricato delle indagini. Abbiamo fatto delle indagini sulla famiglia Gregori, che è risultata una famiglia per bene, una famiglia stimata da tutti. Ma allora chi e perché avrebbe ordito l'imbroglio della lacrimazione? Come poi il liquido rosso fuoriuscire dalla statuina? E soprattutto di che sostanza si tratta? È davvero sangue? Per cercare di rispondere a questa domanda, l'autorità giudiziaria affida alla Madonnina un pool scientifico che la sottopone a radiografie, tac, e a 43 scansioni. Lo racconta un membro del pool, Giancarlo Umani Ronchi, in un'intervista del 3 aprile del 95 tratta da trasmissione televisiva Misteri. È stata sottoposta a una serie di esami radiografici, sempre presso il Policlinico Gemelli, esami radiografici dai quali non è risultata la presenza di marchingegni di nessuna natura, la statuetta è risultata solida, senza orifizi, senza trucchi apparenti. Gli esami dunque escludono che all'interno della statuina esistano trucchi o marchingegni. Su Mix 24, con la storia della Madonna di Civitavecchia, torniamo subito dopo la pubblicità. L'Europa è sempre più presente nella vita quotidiana dei giovani italiani. Come migliorare le cose? Come rendere l'Italia un paese inserito nel flusso di circolazione dei talenti? Vogliamo sapere la vostra! Giovani Talenti è alla ricerca di 4 under 40 da inviare all'Europarlamento di Strasburgo e altrettanti cui consegnare un pass per visitare il padiglione europeo a Expo 2015. Come fare? Basta sintonizzarsi ogni sabato alle 13.30 su Radio 24. Tutte le settimane vi proporremo uno spunto di riflessione su cui potete inviarci una proposta in 140 caratteri via email. Fino al 16 maggio cogli l'occasione per dimostrare il tuo talento e lanciare proposte generazionali. L'iniziativa si svolge in collaborazione con l'Ufficio di Informazione del Parlamento Europeo a Milano. Sono Sergio Nava, vi aspetto ogni sabato con Giovani Talenti. Digital Radio Flash. Ciao, sono Max. Ma è vero che la Digital Radio si sente perfettamente anche mentre guida in autostrada? Sì, perché è un sistema nuovo che migliora l'esperienza d'ascolto con una qualità dell'audio estremamente avanzata. E puoi ascoltare la tua radio in Digital Radio già sul 70% della rete autostradale. Lo sapevi? E allora muoviti. Muoviti a scoprire di più su digitalradio.it. Digital Radio. Il suono perfetto. Anche Radio 24 è in Digital Radio. Mix 24, la storia. Rieccoci a Mix 24. Decine di testimoni oculari, migliaia di fedeli in adorazione, perfino presunti miracoli sono collegati alla Madonna di Civitavecchia. Ma allora, come è avvenuta la lacrimazione? Sentiamo il responsabile del telefono antiplagio, Giovanni Pannunzio, e l'ex sovrintendente Mirko Loi. Poteva essere truccata, per esempio, la grotta sotto la quale c'era la statuetta. Quindi una goccia o più gocce potevano cadere sul volto della Madonna. Assolutamente no. Non era possibile che questo liquido provenisse da sopra. Se scendeva, andava a finire sulla testa. Lì eravamo 4. Sicuri 4 pubblici ufficiali. Che tutti e 4 potessimo essere soggetti a un fenomeno di allucinazione collettiva mi pare improponibile. Avete sentito Giancarlo Mori, comandante dei vigili urbani di Civitavecchia. Il 16 febbraio arriva il risultato dell'esame ematologico. Il liquido rosso prelevato dalla Madonnina è inequivocabilmente sangue umano di sesso maschile. A questo punto, inevitabilmente, i sospetti cadono sul proprietario della statuina, Fabio Gregori. La magistratura quindi dispone il confronto tra il DNA del suo sangue e quello trovato sulla Madonnina. Ma il clima di sospetto verso la famiglia Gregori inasprisce i rapporti tra Fabio e gli inquirenti. Il difensore dei Gregori teme che il confronto del DNA nasconda un tranello e ricorre fino alla Corte Costituzionale per evitarlo. La Corte il 6 luglio del 1996 gli darà ragione, stabilendo che nessuno può essere costretto a subire un prelievo di materiale biologico. Ma questa mossa di fatto aumenta i sospetti contro Fabio Gregori, che insieme al suo avvocato Bruno Forestieri racconta così quell'episodio. Io non mi sono mai sottratto di fare l'esame del DNA, questo lo dimostra la lettera scritta e depositata agli atti della commissione teologica. Riconosco questo evento un evento squisitamente religioso. No, Fabio Gregori non è che non si è voluto sottoporre all'esame e all'analisi del DNA, avrebbe voluto sottoporsi ma con tutte le garanzie del caso che nella fattispecie non c'erano. Secondo la difesa di Gregori, per lo stato delle conoscenze scientifiche dell'epoca, l'esame del DNA avrebbe un'attendibilità limitata. La mappatura del DNA è una questione estremamente delicata perché alla fine isolarono i medici della Procura della Repubblica 5 elementi del sangue che sono comuni al 95% della popolazione mondiale. Quindi vuol dire che questi 5 elementi potevano essere riscontrati non solo nella famiglia Gregori, nei maschi della famiglia Gregori, ma nel 95% della popolazione mondiale. Ma l'esperto della Criminal Poll, Aldo Spinella, assicura in questa intervista rilasciata a Elisabetta Castana che già all'epoca si sarebbe potuto ottenere un risultato ragionevolmente certo. Per le conoscenze biologiche dell'epoca, a quale tipo di risultato sareste potuti arrivare confrontando i due DNA? Una persona su tutta la popolazione di Civitavecchia. Rispetto invece alla popolazione italiana? Circa, potevamo individuare, 20-25 persone su tutta la popolazione italiana. Se io devo farmi l'esame del DNA, che è giusto che si cerchi la verità fino in fondo, perché tutte le persone che hanno pianto nelle sue mani non devono fare l'esame del DNA? Secondo Gregori, insomma, l'esame del DNA non darebbe risposte definitive anche a causa della contaminazione subita dalla statua. Quella statuina era stata toccata e maneggiata dalla famiglia Gregori, era stata posizionata lì, quindi delle tracce di organiche erano già su quella statuina. E come si sarebbe potuto all'epoca e forse anche oggi riuscire a dividere un DNA appartenente a chi ha maneggiato, quindi un sudore, una goccia di sudore, o con quello risultante dal sangue che è sempre sulla stessa statuina? Avete sentito Bruno Forestieri, legale della famiglia Gregori. Alla fine, il dibattito sul mancato test del DNA resta aperto. Io, qualsiasi momento, la Santa Madre Chiesa mi chiederà di fare l'esame del DNA sagliati dal 95, ho detto non solo lo farò io, porterò anche il mio piccolo Davide, visto che è di natura maschile, perché non ho nulla da nascondere. Non ho nulla da nascondere, dice Fabio Gregori, rimettendosi nelle mani dell'autorità ecclesiastica. Ma il Vaticano non gli chiederà mai di sottoporsi ad alcun esame del sangue. Il 16 ottobre del 2000 l'autorità giudiziaria archivia il procedimento penale nei suoi confronti. Secondo il GIP, infatti, l'assenza di congegni truffaldini all'interno della statua e l'impossibilità di effettuare la perizia ematica fanno cadere ogni ipotesi di reato. E tuttavia il giudice sottolinea che la perizia fotografica sulle macchie di sangue esclude le 13 lacrimazioni successive alla prima avvenuta, lo ricordiamo, in assenza di testimoni oculari. Secondo il magistrato, insomma, il fenomeno va attribuito a suggestione collettiva o a cause soprannaturali e spetta all'autorità ecclesiastica il compito di pronunciarsi sull'eventuale natura del fatto. Ciò nonostante, la congregazione della fede, dopo aver acquisito gli atti nel 97, non si è mai pronunciata in via ufficiale. Un silenzio lungo e ostinato, rotto per la prima volta il 17 febbraio del 2005 in questa intervista rilasciata porta a porta dal cardinale Tarcisio Bertone. Ci sono state due commissioni che hanno lavorato attorno a questo evento, una prima commissione, direi anche la parola un po' frettolosamente organizzata dal vescovo di Civitavecchia, che aveva dato un verdetto tendenzialmente positivo sulla soprannaturalità dell'evento, e però già alcuni membri della commissione avevano manifestato molte perplessità, avevano scritto alla Congregazione per la Dottrina della Fede, si è chiesto di formare un'altra commissione, direi anche più completa, che il Cardinal Ruini ha formato, e il verdetto della seconda commissione era un verdetto non consta della soprannaturalità dell'evento. Per completezza di informazione dobbiamo dire che le parole del Cardinal Bertone non sono state confermate da alcun atto ufficiale del Vaticano. Anche noi abbiamo cercato di comprendere meglio se effettivamente ci sia stato un verdetto ecclesiastico su Civitavecchia, ma la Congregazione per la Dottrina della Fede non ci ha voluto rilasciare alcuna dichiarazione. C'è il rischio che non lo saprete mai qual è il giudizio della Chiesa. L'importante è rimanere, come ho detto prima, fedeli all'obbedienza alla Santa Madre Chiesa. Se è un segno di Dio, ci penserà Dio a parlare per mezzo della Chiesa. E un segno sembra arrivare. Il 1 maggio del 2011, Giovanni Paolo II viene dichiarato beato. Il vescovo Grillo legge questo evento come un invito a rompere il silenzio che aveva mantenuto per anni su alcune circostanze che legavano Karol Wojtyla alla Madonna di Civitavecchia. Ora è arrivato il momento di farle conoscere al mondo. Ogni tanto quando lo vedevo chiedevo: e quando devo dirlo? E quando? Lo capirà da solo, sempre così. Non ho voluto dire. Era il 9 giugno del 95 quando Monsignor Grillo, che avete sentito, riceveva una telefonata dal segretario del Pontefice. Santo Padre desidera incontrarla. Porti con sé la statuina, perché il Papa vuole vedere la statuina della Madonna. Il Papa da prima. Preghiamo assieme, recitiamo una preghiera e poi dice: mi racconti la storia della Madonnina. E comincia a parlare il sangue, dica questo, quindi mi ha spiegato, ho fatto un lungo discorso e restavo incantato lì a guardarlo. Il Papa aveva incoronato la statua e le aveva avvolto in una mano un rosario d'oro. E poi l'ha baciata, l'ha benedetta, così la... E abbiamo pregato. Di questo non dirà nulla per adesso, farà silenzio. Un giorno dirà al mondo che Giovanni Paolo ha venerato la Madonnina di Civitavecchia. Il Pontefice, il 20 ottobre del 2000, aveva poi inviato al Vescovo la testimonianza firmata di quel suo gesto, un gesto clamoroso che in qualche modo impegnerebbe la Chiesa a riconoscere l'autenticità dei fatti di Civitavecchia. Il Vaticano non replica né sconfessa il documento pubblicato da Monsignor Grillo. La famiglia Gregori intanto vive nella stretta osservanza dell'obbligo del nascondimento imposto dal Vescovo, lontano dal clamore e soprattutto dai mass media. E infatti l'intervista che Fabio e Jessica Gregori hanno deciso di rilasciare a Elisabetta Castana costituisce un'eccezione assoluta. Ma accade ancora un'altra cosa. La statuina che la famiglia Gregori mostra ad Elisabetta Castana non è quella che ha lacrimato sangue, che è attualmente custodita in una teca blindata del santuario di Sant'Agostino, ma è una seconda statuina che il cardinale Andrei Descourt, su incarico di Giovanni Paolo II, ha comprato a Međugorje, dove era stata comprata anche la prima, al fine di risarcire la famiglia Gregori. 5 mesi dopo, il 7 settembre del 1995, anche questa seconda statuina avrebbe iniziato a lacrimare, ma questa volta non sangue. Anche questo liquido è stato analizzato? È stata fatta tutta la ricerca del DNA per verificare la natura. Non è né di natura umana né di natura animale, di probabile natura vegetale, anche lì con punto interrogativo, perché ci sono delle parti organiche che sono sconosciute alla scienza, non sono riusciti a dare un'identificazione. Secondo i Gregori, queste essudazioni accadono di rado, prevalentemente in concomitanza delle principali ricorrenze cristiane. È il 13 maggio 2012, anniversario delle apparizioni di Fatima, ed ecco che l'incredibile fenomeno accade anche davanti ai miei occhi. L'edera della piccola grotta che circonda la statuina è impregnata di questo olio, ma quando Fabio prende in mano la Madonnina mi rendo conto che il liquido non può essere scivolato dalle foglie. Proprio davanti a me due gocce cominciano a sgorgare dal fianco della statua. La ricostruzione che avete sentito sembrerebbe documentare il fenomeno delle esudazioni anche nella seconda statua della Madonna. Un fenomeno diverso dalla lacrimazione, noto ancora oggi solo a pochi uomini della Chiesa. In mancanza di qualsiasi accertamento tecnico, scientifico e giudiziario di questo ulteriore episodio, noi possiamo e dobbiamo limitarci a raccontarlo. Ma a Civitavecchia c'è di più. Fabio e Jessica Gregori, infatti, sostengono di essere stati testimoni in questi anni di decine di apparizioni mariane. Su Mix 24, subito dopo la viabilità. Allora, il gastronauta l'ho convocato io, Barisoni l'ho convocato io, Cruciani e Parenzo ci sono, e effetto notte, effetto giorno, ma tutti convocati, siete tutti convocati tutti i giorni, io gente! Non sono abituato a vederti senza parlarti al telefono, e quindi sono abbastanza emozionato. Se vuoi ti rifaccio l'effetto del telefono che non... No, è meglio così. È meglio così. Pierluigi Pardo, inizia questo finale di stagione pirotecnico in cui si assegneranno tutti i titoli. Chissà chi vince lo scudetto, per esempio, non lo so, c'è ho dei grossi dubbi. 14.05 tutti i giorni a Rudi Alverdi, tutti convocati. E lo scopriremo. Monge, il cibo naturale per cani e gatti con tanta carne fresca, senza coloranti o conservanti. Vi presenta. Mix 24, la storia. Bentornati a Mix 24. Fabio e Jessica Gregori sostengono di essere stati testimoni negli anni di decine di apparizioni della Madonna di Civitavecchia. Nella prima, che risalirebbe al 16 luglio del 95, la Vergine Maria si sarebbe manifestata di fronte alla piccola Jessica con queste parole. Mi presento a voi come la Madonna delle Rose dal Cuore Immacolato, Regina del Cielo, Madre delle Famiglie. Educherò la vostra famiglia, perché nostro Padre Dio rifonderà tramite voi, dolci figli, la nuova e vera famiglia di Dio. Quando mi appare la Madonnina, io la sento perché mi chiama piccolo angioletto dall'inizio delle apparizioni, quando che è iniziato. Chiama piccolo angioletto mio. E allora so, non c'ha scadenze, giorni precisi, quando vuole lei. La prima volta che mi apparsa, la Madonnina era una ragazza di 16 anni, aveva i capelli lunghi fino a qua, mossi, e castani, poi c'aveva un vestito bianco e un manto celeste e sulla vita c'aveva un cordone come quello dei frati, poi c'aveva la mano aperta e sulla mano sinistra teneva il rosario. E che voce ha? È soave, leggera, trasmette tranquillità. Ma tu ti senti una privilegiata? Privilegiata sì, perché comunque non capita a tutti, cioè sceglie il Signore queste cose qua. Però per il resto mi sento come tutti gli altri, una ragazza normale. Jessica e Fabio sostengono di aver ricevuto dalla Madonna 90 messaggi che in parte sono stati pubblicati. Questi 90 messaggi sono arrivati a tutti, non solo al vescovo. La Madonnina chiede tanto di pregare per le famiglie, che siano più uniti, per i giovani, che non siano persi allo sbaraglio. Poi la cosa che gli premo più di tutto è che dice che purtroppo il demonio è entrato nelle famiglie e le sta distruggendo. Allora di pregare di più in famiglia, di avvicinarsi al Signore, di andare a messa. Alcuni dei messaggi che hai ricevuto sono segreti? Sì, che io non posso. Quanti sono questi segreti? Ma questi segreti saranno rivelati un giorno? Potranno essere rivelati quando ci sarà l'ok, che si possono dire, non piano piano. L'ok di chi? È della Santa Chiesa che ci dice che si possono dire. Ci sono state molte prove, sia a livello anche io personale, ma soprattutto in modo molto più forte sono state Jessica e Anna Maria. Tutti e due hanno avuto due cancri, due tumori, A 14 anni ho avuto un tumore e sono stata operata e me l'ha detto la Madonnina che c'avevo questo tumore in un sogno, mi è apparsa, mi ha fatto vedere tutti i miei compagni che si erano persi nella droga e nelle cose del mondo e mi ha detto che dovevo offrire questo tumore per la loro salvezza. E infatti poi mi sono svegliata, sono andata da mamma, gli ho detto io devo andare a fare degli accertamenti perché ho un tumore, però ha detto la Madonnina che dovete stare tranquilli. Lacrimazione, sudazione sui fatti di Civitavecchia, è bene ribadirlo, il Vaticano non si è mai pronunciato ufficialmente. L'autorità ecclesiastica inoltre, fin dalle presunte apparizioni, ha chiesto a Jessica di non rivelare in pubblico il contenuto dei presunti messaggi della Vergine. Poi il 26 febbraio del 2005 Giovanni Paolo II viene ricoverato d'urgenza in ospedale. Il Papa, che secondo il Vescovo di Civitavecchia avrebbe venerato la statua della Madonnina, è gravemente malato e Jessica, che ormai ha 15 anni, decide di scrivergli una lettera. Caro Papa, sono la bambina della Madonnina di Civitavecchia. Comunque sai benissimo chi sono. Vorrei incontrarti e farti sapere tante cose che non ti hanno detto e che ti riguardano in prima persona, ma che specialmente sono legate a Fatima. Come tu ben sai, a casa mia la Madonnina non ha solo pianto, ma è anche apparsa. E i suoi messaggi riguardano l'umanità, la Chiesa e le famiglie. Il Signore e la Madonnina hanno ancora un compito da farti fare. Ti voglio tanto bene, Jessica. Io gli ho scritto una lettera dicendogli che alcune cose che gli erano state dette non gli erano state dette bene, mancavano alcune cose da dire, quello che io sapevo. Alcuni dei messaggi che hai ricevuto dalla Madonna riguardano il terzo segreto di Fatima? Sì, è vero. È vero che alcuni di questi segreti sono collegati al terzo segreto di Fatima, però io non posso dire quello che dice il segreto. Fatima è lo scenario delle famose apparizioni mariane del 1917, in cui la Madonna avrebbe profetizzato a tre pastorelli portoghesi i cosiddetti tre segreti di Fatima, poi divulgati dalla Chiesa nel corso del XX secolo, così come descritti dall'ultima veggente ancora in vita, Suor Lucia. Il 13 maggio del 2000, il Vaticano, per volontà dello stesso Giovanni Paolo II, ha pubblicato il più controverso di quei segreti, il terzo. Quando il terzo segreto fu pubblicato, il cardinale Josef Ratzinger, in veste di prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, lo aveva interpretato come la profezia di un evento già accaduto, l'attentato subito da Giovanni Paolo II nel 1981. Ma allora, se il terzo segreto di Fatima è già stato pubblicato nel 2000 e se le profezie in esso contenute si sono già consumate nel 1981, cos'altro deve rivelare su questo argomento Jessica Gregori al Papa Giovanni Paolo II nel 2005? Nel corso degli anni, diversi studiosi hanno avanzato il dubbio che una parte del testo del terzo segreto sia stato male interpretato o addirittura censurato. Il 15 giugno del 1996, nel convento di clausura di Coimbra, dove è rinchiusa, Suor Lucia dos Santos incontra la piccola Jessica Gregori. Io e Suor Lucia ci siamo incontrate e abbiamo parlato del segreto e tutto quanto e ci siamo passate messaggi a vicenda. E avete come fatto una staffetta? Eh sì, ci siamo passati quello che voleva la Madonnina. La ragazza attende un'indicazione della Vergine Maria. Quel che è certo è che Jessica non riuscirà mai a parlare con Papa Wojtyła, che però, poco prima di spegnersi, riceve la visita del vescovo di Civitavecchia, Monsignor Grillo. Mi guardava fisso, mi dico non mi riconosci. Ha abbassato gli occhi e ha detto tre volte Civitavecchia, Civitavecchia, Civitavecchia ed è scoppiato a piangere. Pochi giorni dopo, il 2 aprile del 2005, Papa Wojtyła morirà. Ma l'eco di quel suo pianto sembra risuonare fino a Civitavecchia. Quando lui si è aggravato, la settimana che lui si è aggravato che poi è morto, la Madonnina qui ha iniziato a piangere, lacrime normali. Ancora un fenomeno apparentemente inspiegabile che, secondo la famiglia Gregori e il Vescovo Grillo, proverebbe l'ennesima lacrimazione della statua di Civitavecchia nel primo anniversario della morte di Giovanni Paolo II. Ma davvero Wojtyła ha venerato la Madonna di Civitavecchia? E davvero si è spinto a nominarla più volte sul letto di morte? Quel che è certo è che le parole di Monsignor Grillo sui suoi incontri con Wojtyła non sono mai state smentite né commentate dal Vaticano. Jessica Gregori, la veggente di Civitavecchia, afferma di continuare a ricevere messaggi dalla Vergine. È l'ennesimo capitolo di una vicenda in cui realtà e suggestione tendono fatalmente a confondersi. A questo proposito, Jessica Gregori ci rivela un altro messaggio che riguarderebbe il successore di Karol Wojtyła, il pontefice Benedetto XVI. Uno dei messaggi dice che il Santo Padre purtroppo non comanda come dovrebbe comandare, sono più i cardinali che decidono più che lui. Questo ulteriore, drammatico messaggio sembra profetico. 8 mesi dopo questa intervista alla veggente di Civitavecchia, infatti, accade un evento inimmaginabile e sconcertante. Ho deciso di rinunciare al ministero che il Signore mi ha affidato il 19 aprile 2005. Ho fatto questo in piena libertà, per il bene della Chiesa, dopo aver pregato a lungo ed aver esaminato davanti a Dio la mia coscienza, ben consapevole della gravità di tale atto, ma altrettanto consapevole di non essere più in grado di svolgere il ministero petrino con quella forza che esso richiede.